Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata a tutti. Oggi è l'ultimo giorno per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, l'ultimo giorno appunto che hanno a disposizione queste figure professionali per richiedere l'inserimento nei nuovi albi professionali gestiti dall'organismo degli agenti e dei mediatori, che chiameremo per comodità con la sigla OAM. L'iscrizione è resa necessaria da un recente decreto legislativo e sembra non andare giù in particolare ad una categoria che viene coinvolta nell'obbligo di inserimento in questa lista. Si tratta dei promotori finanziari. Sono già migliaia le lettere, credo qualcosa come 8.000, inviate alla Presidenza del Consiglio dai promotori finanziari che, guidati dalla loro associazione di categoria, l'ANASF, si stanno mobilitando per chiedere una modifica alla riforma del credito al consumo che ha appunto previsto questi nuovi adempimenti. E questa riforma è entrata in vigore a metà ottobre. La nuova normativa impone loro di iscriversi a questo organismo, all'OAM, come vi dicevo, proprio come agenti in attività finanziaria. L'iscrizione è al momento necessaria per distribuire prodotti di finanziamento, a meno che questi non ne siano accessori all'attività principale di promozione di contratti di investimento. È una questione un po' complessa, ma in realtà quando poi la legislazione si muove, chiaramente ha anche l'obiettivo di tutelare il consumatore finale, l'utente finale, colui che riceve in ultima istanza il servizio o del mediatore creditizio o del promotore finanziario. Per cui noi stamattina vorremmo capire di più che cosa sta succedendo, spiegando il funzionamento di questo nuovo organismo, intanto raccogliendo la protesta dei promotori, cercando di capire quali ricadute potrebbe avere l'introduzione di queste nuove regole nel servizio offerto ai clienti. Chiaramente ci aspettiamo come sempre il vostro contributo in diretta. Potete chiamarci all'800 24 00 24, ci potete scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it e potete andare anche su Facebook salvadanaio-radio24, potete twittarci anche su @salvadanaio24. Mi aspetto, se vorrete, magari anche delle prese di posizione di promotori finanziari che ci ascoltano, ma anche da chi magari si è imbattuto in un mediatore del credito per chiedere un mutuo, un prestito e magari ha avuto così un po' una sensazione strana rispetto a queste figure professionali che però hanno avuto una drastica riorganizzazione di recente, proprio naturalmente anche per cercare di rendere più trasparente possibile la relazione con il cliente finale, con chi naturalmente ha necessità di finanziamenti per l'appunto. Con noi questa mattina l'avvocato Andrea Ciani, componente del comitato di gestione dell'organismo degli agenti dei mediatori. Avvocato, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ci sente? A tutti, grazie. Eccoci qua. Oltre ad avere questo compito in questo momento, l'avvocato Ciani è uno dei massimi conoscitori della legislazione in Italia in tema di credito al consumo e è ovviamente una qualità riduttiva quella che io ho raccontato, però insomma conosce molto bene quello che è cambiato negli ultimi anni anche per quello che riguarda l'attività degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. E poi naturalmente, visto che vi abbiamo detto che vorremmo raccogliere e spiegare bene la protesta anche dei promotori finanziari, abbiamo il presidente dell'ANASF, l'Associazione Nazionale dei Promotori, Maurizio Bufi, che saluto. Presidente, buongiorno e bentornato a Salva Danaio. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, ho già raccontato ai nostri ascoltatori come possono fare per intervenire in diretta. Adesso vediamo intanto in borsa cosa succede. Un minutino per raccontare la giornata finanziaria. È una giornata positiva con l'unica eccezione di Londra che da stamattina rimane un po' indietro rispetto alle altre piazze. Per Londra meno 0,13% sul FTSE MIB, mentre abbiamo Parigi in rialzo dello 0,37%, Francoforte più 0,63%, Milano più 0,84%. Andavano un po' meglio stamattina le borse, poi hanno rallentato un pochino il passo. C'è comunque una condizione generalmente positiva per il via libera alla nuova tranche di aiuti alla Grecia, che in cambio dell'ottenimento di queste nuove risorse finanziarie sbloccherà un piano di tagli da 13,5 miliardi. Oggi è la giornata in cui riprendono anche gli scambi a Wall Street. Per fortuna Sandy è passato, anche se ha lasciato dietro di sé un carico di devastazione, purtroppo anche molti morti. La piazza finanziaria appunto americana chiusa per 2 giorni, oggi riprende. Vedremo anche come recupererà queste 2 giornate in cui è mancata all'appello. A Milano, come vi indicavo già nel giornale radio, sono particolarmente movimentati i titoli della galassia Fiat. I titoli industrial sono in rialzo del 3,33% dopo i dati comunicati questa mattina, dopo anche la notizia dell'accordo tra Iveco e la Rimar Group, una società sudafricana leader nel trasporto collettivo. C'è una joint venture che parte e su questa prospettiva internazionale il titolo cresce, mentre da ieri c'è un calo molto netto per i titoli SPA, meno 4,22% anche oggi. Ieri i conti sono stati comunicati e sono stati inizialmente accolti bene dal mercato, però poi il gruppo ha rivisitato e corretto a ribasso i target per tutti il 2012 e su questa revisione a ribasso il mercato picchia duro anche oggi, meno 4% dopo il meno 4 già lasciato sul campo ieri. E chiaramente questa performance condiziona anche Exor, la holding della galassia Fiat, che perde 1,5 punti. L'euro sul dollaro però in compenso è tornato sopra quota 1,30 e lo spread fra BTP e Bund è sui 345 punti base, quindi ha ripreso leggermente a scendere. Questo è tutto per quello che riguarda la borsa. Andiamo invece adesso al tema di oggi. Parliamo di due categorie professionali che apparentemente potrebbero sembrare appunto molto lontane, ma c'è una legge nuova che vorrebbe invece avvicinare molto. Sentiamo allora che cosa sta cambiando e perché qualcuno non ci sta. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi hanno ormai poche ore di tempo, la scadenza è la fine del mese di ottobre, per richiedere l'inserimento nei nuovi albi professionali gestiti dall'organismo degli agenti e dei mediatori. Senza essere iscritti, non potranno continuare a svolgere la loro attività. A rendere necessaria la domanda di ingresso nell'OAM, questa la sigla che individua l'organismo, è l'ultima riforma del credito al consumo e in particolare un decreto legislativo comparso in Gazzetta Ufficiale all'inizio del mese. Chi apparteneva già ai precedenti albi tenuti da Banca Italia non dovrà sostenere alcuna prova d'esame. La procedura per l'iscrizione è telematica sul sito dell'OAM e ha un costo, 2.000 euro la quota fissa per i mediatori, più 120 euro per ogni dipendente e collaboratore. Per gli agenti, invece, la quota fissa di 2.000 euro è dovuta solo da società di capitale e cooperative, mentre scende a 1.500 euro per le società di persone e a 200 euro per le persone fisiche. E a questa quota di iscrizione si aggiungerà un contributo annuale quantificato di volta in volta. Queste novità sono state particolarmente sgradite ai promotori finanziari, già inseriti in un proprio albo professionale, l'APF, e nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi presso l'ISVAP. Si vedono imposto ora l'obbligo di iscrizione alla lista degli agenti dell'OAM e hanno messo in atto un'accesa protesta. L'iscrizione è diventata necessaria per distribuire prodotti di finanziamento, a meno che questi non siano accessori all'attività principale di promozione di contratti di investimento. Per noi l'OAM rappresenta una sovrastruttura catapultata sul nostro mondo, con oneri aggiuntivi inutili in termini di vigilanza, ha dichiarato Maurizio Buffi, presidente dell'associazione di categoria, l'ANASFA. Un nuovo obbligo, insomma, che non va proprio giù al settore. E sono infatti già migliaia le lettere inviate dai promotori alla Presidenza del Consiglio per chiedere una modifica della riforma. Presidente Buffi, in realtà volevo cominciare con l'avvocato Ciani per farmi raccontare che cos'è nel dettaglio l'OAM, quando e come si è deciso di fare in modo che gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi si organizzassero attraverso questo organismo, però in realtà vorrevo a questo punto cambio idea. Comincio con lei per chiederle quante lettere avete inviato appunto al governo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Io prima citavo una cifra, 8.000, è possibile, sono di più, sono di meno? È una cifra corretta, abbiamo raggiunto e superato le 8.000 adesioni, quindi un numero importante. D'altra parte il servizio che avete mandato in onda rappresenta bene il nostro stato d'animo e soprattutto il modo con cui ci stiamo posizionando rispetto a questo che riteniamo un provvedimento del tutto improvvido ed ingiusto, oltre che dannoso complessivamente, perché invece di fare chiarezza per quello che riguarda una figura professionale come la nostra, ci crea per l'appunto delle sovrastrutture di ordine amministrativo e di ordine ovviamente anche economico per quello che riguarda gli eventuali contributi da versare, di cui non solo non si sentiva il bisogno, ma che ha tutte le caratteristiche per essere una vera e propria forma di iniquità. Quindi sì, la protesta è stata molto forte, continua peraltro, perché nel momento in cui ci siamo resi conto, interpretando, credo di poter dire ben interpretando il sentiment di un'intera categoria, certamente della stragrande maggioranza degli associati, e non solo, perché hanno aderito a questa iniziativa anche ovviamente non, colleghi che non sono associati ad ANAS, ma che magari utilizzeranno questa occasione per diventarlo, proprio perché è una decisione del governo che noi abbiamo contestato da subito. Tenga conto che sul tema della riorganizzazione del settore, se posso dire, noi non avevamo nulla in contrario, anzi avevamo detto fin da subito, cioè stiamo parlando di ottobre dell'anno scorso, che era necessaria e forse utile per quello che riguarda quel tipo di settore, ma con il quale non abbiamo un diretto collegamento, giacché l'attività che svolge professionalmente il promotore finanziario è già normata, è già regolamentata, è già vigilata. E come lei giustamente ricordava all'inizio, i promotori hanno il loro albo, che è APF, che tra l'altro l'associazione ha fortemente voluto dal 2009 come albo di autoregolamentazione, che a sua volta è vigilato da Consob. Quindi in sostanza noi abbiamo il nostro quadro di riferimento giuridico, il nostro quadro di riferimento contributivo, il nostro sistema di vigilanza, il nostro sistema di formazione. Tutto questo aggiunge soltanto sovrastrutture che non aiutano neppure nell'intento teoricamente nobile di tutelare il consumatore e il risparmiatore finale. Abbiamo capito perfettamente. Avvocato Ciani, allora necessariamente adesso devo venire da lei. Ci racconta, chiaramente dobbiamo farlo in maniera molto sintetica, come siamo arrivati alla creazione dell'organismo degli agenti e dei mediatori del credito. Lei so che ha seguito appunto step by step, passo dopo passo, tutto l'iter di costituzione appunto di questa questo nuovo organismo, per l'appunto, e per quale motivo il legislatore ad un certo punto ha voluto che si iscrivessero anche appunto i promotori finanziari. Qual è la ratio di questa decisione? Qual è stata? Beh, allora, il cammino comincia in effetti un po' da lontano, perché è sostanzialmente dal 2007 che è sorta la necessità di mettere mano alla disciplina vigente per quanto riguardava le reti distributive di prodotti di credito. Si arrivò a disegni di legge e nel 2010 questo provvedimento legislativo, che è quello che ha previsto in sostanza il passaggio degli albi, all'epoca tenuti da Banca d'Italia, di agenti e mediatori, il passaggio ad un organismo di natura, diciamo, privatistica, un po' come sul modello dell'organismo che già esisteva per i promotori finanziari. Nel fare questo la legge non ha soltanto modificato il soggetto che teneva l'elenco, ma ha anche modificato radicalmente i requisiti, che sono molto più stringenti. Io in questo momento non mi soffermo su questi aspetti, so che il Sole ha fatto tra l'altro vari approfondimenti sul tema, ma soltanto per darvi qualche numero, c'erano iscritti intorno ai 2.000 soggetti nei due albi complessivamente, 200.000 soggetti nei due albi complessivamente di agenti e mediatori. Noi ad oggi abbiamo ricevuto all'incirca 7.000 istanze di iscrizione, e oggi è l'ultimo giorno per poter fare questa iscrizione, poi magari ci ritorniamo. Perfetto, dopo magari spieghiamo esattamente che tipo di deadline è. Comunque, soltanto per comprendere, che diventassero anche 8, 9, 10.000, cambia poco. E comunque la riduzione è, come correttamente definita prima, drastica, quantomeno dal punto di vista del numero degli operatori. Recentemente è stato approvato questo provvedimento correttivo, entrato in vigore appunto il 17 di ottobre, nel quale è stata presa una posizione in qualche modo innovativa rispetto alla disciplina previgente, appunto con riferimento in particolare a promotori finanziari e agenti assicurativi, imponendo a loro, laddove vogliono distribuire prodotti di credito, ovviamente non è un obbligo generale per loro, soltanto laddove vogliono intermediare prodotti di finanziamento, l'obbligo di iscriversi nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. C'è una serie di problematiche legate ovviamente all'immediatezza della risoluzione di questo problema, quindi un regime transitorio da comprendersi come verrà applicato nei prossimi mesi, perché di qui alla fine dell'anno i promotori dovranno avere la possibilità di continuare quantomeno a fare quello che facevano prima. Ci sono novità veramente dell'ultima ora, perché questa mattina ho ricevuto il testo della circolare che oggi il Ministero pubblicherà su questo aspetto, se volete dopo ci torniamo. Posso dire due cose su questo. Rispetto al tema dei costi, ovviamente ecco, la ratio che ha indotto il legislatore ad assumere questa decisione, onestamente come dire, è ben, penso di poterla comprendere, pur non facendo noi né una difesa né un attacco a questa decisione. Noi non siamo sempre stati come organismo spettatori rispetto a al dibattito che c'era sul tema dell'obbligo di iscrizione dei promotori. In questo momento ci vediamo, insomma, a dover applicare questa novità normativa che, per inciso, insomma, qualche complicazione organizzativa è evidente che a noi la porta. Lei è una persona molto ragionevole, avvocato Ciani, ma secondo lei è una buona idea che i promotori finanziari, poi abbiamo capito che, come dire, le iscrizioni andranno limitate o andrebbero limitate solo a coloro che eventualmente si fanno anche mediatori di sottoscrizione per conto dei propri clienti di prodotti, appunto, di finanziamento, quindi non prodotti di investimento, ma per lei è una buona cosa questa evoluzione che c'è stata negli ultimissimi giorni o no? Avvocato, penso che la finalità di questa scelta sia stata semplicemente quella di comprendere, di dare uniformità all'attività di vigilanza sull'attività, cioè a prescindere dal soggetto che la fa, l'attività di distribuzione di un prodotto di fine di credito è sottoposto al medesimo tipo di attività, cioè dallo stesso soggetto, quindi l'organismo degli agenti, dei mediatori, è la stessa attività di vigilanza che viene fatta sugli agenti in attività finanziaria puri. Questa penso che è stata la finalità. È evidente che c'è un problema di costi, di duplicazione degli adempimenti che la legge. E quindi i promotori hanno anche comprensibilmente, appunto, detto la loro. Mi fermo un attimo perché, tra l'altro, prima di andare avanti con i nostri ragionamenti, che lo so, mi rendo conto possono apparire un po' complessi, un po' lontani magari in questo momento dai temi che stanno preoccupando i nostri ascoltatori, però in realtà, siccome poi tutto è finalizzato ad avere le migliori tutele possibili nel nostro rapporto e nella nostra relazione, come vi dicevo anche all'inizio, e di fronte al promotore finanziario e di fronte anche alla persona che invece ci fa consulenza per ottenere un prestito o un finanziamento, allora magari è bene che conosciate anche tutte queste cose che cambiano, e che cambiano molto spesso in maniera anche abbastanza repentina, non permettendo poi alle categorie dei diretti interessati di, non dico difendersi perché non hanno bisogno, ma di dire la loro, perché poi le regolamentazioni sono necessarie, qualche volta però cadono un po' troppo dall'alto in maniera veloce. Volevo chiedere anche un attimo di pazienza a Giovanni da Reggio Calabria e Massimo da Roma, che sono in due ascoltatori pronti ad intervenire, perché volevo fare, prima della prima pausa, un'altra domanda all'avvocato, sia l'avvocato, al presidente dell'ANASF Maurizio Buffi, per chiedere: ci sono molti promotori finanziari che, oltre a fare i consulenti di investimento, fanno anche consulenti magari proprio sempre per conto della stessa banca, per cui operano in altri settori, quindi voglio dire, teoricamente anche questa doppio adempimento, questi doppi oneri che potreste trovare, appunto, a pagare, a versare, in sostanza, riguarderebbe molti di voi? Ci sono molti che fanno, come dire, una doppia attività, poi illecitamente, per carità del cielo, perché è chiaro che se uno segue un cliente per conto di una banca perché gli offre delle soluzioni di investimento, magari per conto della stessa banca, e gli dici: se hai bisogno di un mutuo vieni prima da me che cerco io di intermediare per te per conto dell'istituto di credito, verso l'istituto di credito, o no? Ma guardi, la risposta sta nel cuore della nostra attività. Noi ci occupiamo di fatto di promozione, collocamento e consulenza, e sostanzialmente significa una pianificazione integrata dei bisogni e delle esigenze della clientela. E questo credo che da solo rappresenti in modo chiaro e univoco la tipizzazione del promotore, la sua univocità in questo senso, per cui è evidente che di fronte ai soggetti che sono i risparmiatori, che rappresentano esigenze che vanno, come lei giustamente ricordava, dalle necessità di gestire bene e correttamente l'indebitamento, quindi i prodotti adesso correlati, così come le esigenze di far rendere il proprio denaro, e quindi le esigenze di investimento, sono tutt'uno. E tra l'altro questo essere tutt'uno lo ritroviamo nel rapporto di monomandato che obbligatoriamente i promotori finanziari, come è noto, hanno nei confronti del soggetto preponente. Quindi sostanzialmente questa nuova normativa, io capisco le cautele dell'avvocato Ciani nelle sue dichiarazioni, ma questa nuova normativa sostanzialmente prende atto di ripartire, di spezzettare una figura come quella del promotore finanziario, considerandola una volta un soggetto che colloca determinati prodotti, quando si tratta di prodotti di finanziamento piuttosto che di strumenti di pagamento, una volta quando colloca strumenti di natura assicurativa, vedi RUI già citato, una volta quando colloca altri strumenti. Non è così. La posizione, la professione, lo sviluppo, l'evoluzione del promotore è tutt'altra, ed è già tutt'altra da anni, non da oggi. Ci fermiamo, ci fermiamo. Abbiamo la nostra prima pausa pubblicitaria, il meteo, sentiamo un po' cosa succede oggi in Italia, visto che sta arrivando un'altra bella tempesta qui da noi per tutto il pomeriggio. Poi cominceremo a sentire anche le domande, le osservazioni dei nostri ascoltatori a tra poco. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, oggi stiamo parlandovi di una protesta molto forte che è in corso da qualche giorno a questa parte, quella da parte della categoria dei promotori finanziari, guidati dalla loro associazione di categoria, l'ANASF, che appunto contestano l'obbligo di iscrizione all'albo gestito dall'organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Un organismo che peraltro è entrato pienamente nella sua operatività, visto che oggi è l'ultimo giorno che gli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi hanno a disposizione per richiedere l'inserimento nei nuovi albi professionali appunto gestiti da questo organismo. È una situazione piuttosto complicata, però di fatto i promotori finanziari appunto non ci stanno. Volevo chiedere un chiarimento all'avvocato Andrea Ciani, componente del comitato di gestione dell'OAM, appunto lo ribadisco, l'organismo degli agenti e dei mediatori, ogni volta devo fare la traduzione a beneficio degli ascoltatori che non conoscono l'argomento, per capire, ammettendo che un promotore finanziario decida di non voler in assoluto fare attività professionale di altro genere se non quella della consulenza di investimento, no? Però molto spesso capita che, per esempio, propone un fondo di investimento ad un cliente e per aprire questo rapporto con l'intermediario per il quale opera, magari questo intermediario chiede la contestuale apertura di un conto corrente che magari obbliga anche la sottoscrizione di una carta di credito, no? Lì, come dire, si rischia subito di cadere nell'equivoco nel fatto che questo promotore a questo punto ha fatto anche consulenza di altro tipo, per la quale sarebbe stata necessaria l'iscrizione presso l'organismo degli agenti e dei mediatori, che magari nel frattempo non ha fatto. Ho fatto un esempio molto peregrino, avvocato? No, assolutamente. Questa è sicuramente l'ipotesi più delicata, nel senso che è un po' il caso limite, poiché la norma comprende una esplicita esenzione dall'obbligo di iscrizione nel nostro elenco, cioè quello degli agenti, per i promotori che si limitino, diciamo, a intermediare un prodotto di credito o un servizio di pagamento dove questo prodotto sia volto poi a usufruire dei servizi di investimento. Quindi è tutto comunque chiaro sin dall'inizio, però il promotore deve dichiararlo. Diciamo che oggettivamente deve sussistere questo rapporto di strumentalità, questo collegamento tra il prodotto tra il conto corrente con i servizi di pagamento che esso contiene e il prodotto di investimento. È ovvio che su questo penso che anche il presidente Buffi sia in attesa di, come dire, qualche chiarimento da parte del Ministero dell'Economia, che probabilmente ci dirà esattamente in quali casi questo tipo di esenzione opera. Il caso che ho sentito adesso esporre da lei mi sembra che ricada. Le faccio sentire, avvocato Ciani, anche Massimo da Roma, che forse aveva un esempio simile a quello che ho fatto io. Massimo, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, in effetti mi ha anticipato il mio... Guardi, il mi mio deve scusare, non me ne ero accorta del contenuto della sua domanda, se non l'avrei fatto fare a lei, l'ho bruciata, ma inavvertitamente. Però rafforziamo il concetto, non è un problema. Sì, sì, la ringrazio. Mi chiedo, allora, visto quello che ha detto il suo ospite in questo momento, se il conto corrente è associato a un investimento, nel mio esempio era un fondo appunto che può staccare cedole, il conto corrente vive e esiste soltanto se esiste il fondo? E comunque sia, può utilizzare il cliente gli strumenti di pagamento per spese sue private? Ecco, facendo diventare contestualmente il consulente invece qualcos'altro rispetto al solo promotore finanziario e consulente per servizi. Come si evince poi che sia stata, cioè se una dichiarazione, so che avete detto prima, dove si evince appunto che quel conto corrente, che comunque ha vita a sé, che ha vita propria, chiamiamola così, esiste proprio perché c'è stato fatto a monte un investimento. Certo. Tutto qua. Massimo, sentiamo un po' allora che cosa ci rispondono di nuovo i nostri ospiti. Presidente Buffi, lei come ha interpretato la norma? Ma guardi, al di là dell'interpretazione della norma che attiene a questo concetto di accessorietà, su cui c'è di tutto di più, il segretario al Consiglio dei Ministri nella sua risposta all'interrogazione parlamentare ha fatto riferimento, demandando a Consob e a Banca d'Italia anche ulteriori chiarimenti in merito. Il tema è a monte, è che, come lei ha giustamente osservato, qui creiamo degli equivoci, creiamo delle sovrastrutture interpretative, creiamo dei lacci e dei lacciuoli in un momento, in un periodo in cui tutti evocano, perché il punto è questo, elementi di semplificazione, elementi di concorrenzialità, livellamento del campo di gioco, tutti elementi che in questa normativa riguardo ai promotori finanziari e agli obblighi ad essi previsti vengono totalmente non presi in considerazione, vengono sostanzialmente ritenuti inutili, quando invece sono esattamente l'humus, sono gli elementi che rendono l'attività, un'attività economica, un'attività professionale ricca di prospettive e di sviluppo, ma non nel momento in cui noi andiamo a mettere degli ulteriori elementi, e ripeto, anche di natura economica e contributiva, che appesantiscono l'attività. Quindi al di là degli elementi interpretativi, che mi auguro siano comunque, qualora dovessimo adottarli, in linea con le nostre aspettative, il tema è un altro, se mi consente. Il tema è che noi non vogliamo stare, sostanzialmente per i motivi che ho detto e che ripeterò all'infinito se necessario, in un albo che non ci appartiene, ma non abbiamo nulla in contrario, no, invece lì ci siedano soggetti che debbono essere giustamente vigilati ed organizzati, perché noi già ce l'abbiamo. Promotore, abbiamo, c'è nessun sì. motivo. Presidente, abbiamo capito, noi le sue questioni di principio le abbiamo comprese perfettamente. Lei, siccome mi conosce anche molto bene, sa bene che la nostra trasmissione ha anche necessariamente un taglio molto di servizio e molto pratico, per cui oggi vorrei anche capire, entrando e rispettando la concretezza che ci ha chiesto Massimo da Roma, cosa cambierebbe per l'operatività individuale, quindi la questione della rosa dell'accessorietà dei servizi accessori. Massimo ha ragione quando teme che consentendo l'apertura di un conto corrente a un suo cliente al quale ha venduto un fondo di investimento rischia una violazione della norma? Ha una preoccupazione giustificata? Certo, è una preoccupazione giustificata che noi evidentemente dobbiamo dissipare soltanto nel momento in cui abbiamo una interpretazione dell'accessorietà la più ampia possibile, evidentemente, tale per cui a quel punto il promotore finanziario non è soggetto all'obbligo di iscrizione all'OAM, non v'è dubbio. Giovanni, però la preoccupazione è fondata e ragionevole. Allora, mi trattengo ancora un po' con l'avvocato Andrea Ciani, perché poi tra un po' deve lasciarci, poi concluderò tutta la trasmissione con il presidente dell'ANASF Buffi, ma all'avvocato Ciani faccio rivolgere la domanda a Giovanni da Reggio Calabria. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Sì, io sono agente in attività finanziaria. Ha fatto l'iscrizione? Io ho fatto l'iscrizione. Diciamo che questa nuova normativa è stata un pochettino, diciamo, troppo... Ecco, è troppo, non lo sapremo mai. Comunque lui, da quello che vedo dalle anticipazioni che le splendide ragazze del Centralino avevano scritto appunto sul mio monitor, lui avrebbe voluto dire che con questa normativa ritiene che ci sia una grande limitazione per quello che riguarda il lavoro di queste figure professionali. Comunque Giovanni, ci sarebbe piaciuto che argomentasse un po' di più. Avvocato Ciani, ritorno da lei. Allora, esattamente oggi che cosa succede? Chi si iscrive? Tra l'altro c'è stato un grande repulisti nella categoria, perché lei ci diceva che di fronte a una platea potenziale di 200.000 soggetti fino adesso hanno completato l'iscrizione circa 7.000 agenti e mediatori. Allora, cosa devono fare oggi? Che cosa potranno fare da domani? Allora, prima accennavo che la data di oggi è in realtà una deadline indicativa, limitata, nel senso che oggi è soltanto la scadenza per fare l'istanza per tutti coloro che, essendo stati iscritti nei vecchi albi, vogliono iscriversi senza dare l'esame. Quindi oggi è il termine per fare una specie di passaggio semi-automatico, nel senso che non è automatico perché poi ci sono altri 1.000 requisiti da verificare, però l'esame non lo si deve dare e quindi abbiamo, puoi immaginare, l'impennata di istanze di iscrizione che abbiamo avuto negli ultimi giorni, nelle licenze abbiamo tipo 500-600 al giorno. Da domani sarà comunque possibile evidentemente continuare a presentare le istanze, ma chi la presenterà da domani dovrà prima avere dato l'esame, perché l'accesso agli albi è, dopo la riforma, vincolato al superamento di un esame che tiene lo stesso organismo. Abbiamo già fatto alcune sessioni nei mesi di settembre, di ottobre, e ce n'è un'altra in novembre. Per i promotori finanziari, giusto per rimanere sul tema, c'è in realtà un regime particolare, perché questa circolare a cui accennavo, che penso venga pubblicata oggi, dirà comunque che allora è permesso evidentemente fino alla fine di quest'anno continuare a svolgere l'attività che svolgevano prima, quindi anche volessero per assurdo dedicare gran parte del loro tempo solo ai prodotti di finanziamento lo potrebbero tranquillamente fare fino alla fine dell'anno. L'unico, entro quel termine potranno presentare l'istanza senza dare l'esame, se ottengono una certificazione dell'intermediario per cui lavoravano, che ci dice che loro da almeno 3 anni già fanno in pratica l'attività di agenzia in attività finanziaria, quelli che non hanno questo requisito dei 3 anni o non ottengono la certificazione devono dare l'esame, ma questa circolare chiarirà che è sufficiente per continuare a lavorare che entro quest'anno si iscrivano all'esame che noi bandiremo probabilmente a inizio dell'anno prossimo, perché faremo un esame ad hoc per i promotori che permetta di verificare soltanto quel qualcosa in più che eventualmente è richiesto a loro rispetto a quello che già tra l'altro devo dire che hanno già un esame veramente difficile i promotori, per cui li obblighiamo è esattamente quello che stavo per dire. È evidente che non sottoporremo loro ad un altro esame quasi altrettanto complicato come quello previsto per agenti e mediatori, ormai è una prova veramente molto selettiva. Questo è il quadro odierno. Sul tema dei costi, se posso soltanto rassicurare qualche ascoltatore che magari fa il promotore, comunque abbiamo previsto quote minori per i promotori finanziari, laddove rimanga, diciamo così, a livello legislativo l'obbligo di iscrizione, quindi questa iniziativa presa dall'associazione dei promotori non avesse successo, comunque per loro la quota di iscrizione è di 100 euro, quindi è comunque inferiore a quella degli iscritti normali, ecco, nei nostri elenchi. Benissimo. Avvocato Ciani, guardi, sono talmente brava che se vuole la lascio anche adesso, poi concludo gli ultimi 10 minuti con Maurizio Buffi. Abbiamo altre informazioni da dare, almeno secondo lo stato dell'arte che abbiamo adesso, agli ascoltatori relativamente a tutte queste novità di rilievo a cui lei tiene, che magari non le ho chiesto e che invece vanno spiegate agli ascoltatori? Ma se ci sono promotori all'ascolto, l'unica segnalo che oggi abbiamo fatto un invito direttamente sul nostro portale ai promotori finanziari, appunto, a disertare il nostro esame, quello normale, quello per agente immediato, perché sono talmente numerosi che se si iscrivono i promotori al nostro esame, quello appunto normale, oltre a fare un esame molto più difficile di quello che verrà fatto apposta per loro, riempiono immediatamente i posti disponibili, quindi abbiamo invitato, magari sia attraverso le associazioni se possiamo, ma anche attraverso il portale, a non iscrivere i promotori nel nostro esame, quello tradizionale, perché appunto con i tempi che comunque sarà necessario, diciamo, affrontare nei prossimi giorni, fisseremo una o più sessioni ad hoc per i promotori finanziari, appunto per fare questa specie di esame. Quale miglior notizia per tutti gli studenti del mondo? Quella di disertare un esame. Avvocato Ciani, la ringrazio per averci spiegato quello che sta accadendo. Allora, sentiamo un po' di promotori finanziari e poi concludiamo con Maurizio Buffi. Da chi iniziamo? Ce ne sono tanti. Vittorio da Treviso, se ce la fate ad essere brevi e concisi, vi faccio parlare tutti quanti. Vittorio, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Premetto che non sono un promotore finanziario, ma sono un agente in attività finanziaria. Sì. E l'iscrizione al nuovo organismo per noi è una complicazione, non fosse altro perché l'orientamento per i promotori è quello del plurimandato, mentre per gli agenti in attività finanziaria si pretende il monomandato, pur facendo un'attività che comunque è abbastanza vicina, abbastanza simile. In secondo luogo, non si tiene conto dell'attività pregressa della gente, per cui le cito ad esempio moltissimi colleghi miei che non hanno i requisiti, per esempio, del titolo di studio, si trovano a non poter iscriversi all'organismo. Certo, Vittorio, però quindi qua la retroattività di queste norme qui sta veramente mettendo la retroattività, tra l'altro, infastidisce sempre e comunque su tanti aspetti, qualche volta ancora di più. Quello che mi stupisce sempre è la presa di posizione molto viva di tante persone che ci stanno scrivendo, ma questa norma tra l'altro non è esattamente nata ieri. Io mi continuo a stupire perché tutte le associazioni di categoria vengono comunque sempre audite, come si dice quando si fanno i percorsi di costruzione dei disegni di legge e quant'altro, quindi evidentemente non funziona come la penso io, e sono sempre Alice nel paese delle meraviglie. Poi sento Buffi su questo. Sentiamo Marco da Piacenza. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Io invece sono un promotore finanziario. Una cosa velocissima, una domanda e poi una questione a sostegno. Io, per esempio, non faccio mutui da non so se sono 3 o 4 anni, e comunque la mia perché la sua banca non li fa, Marco, oppure no, perché ha deciso professionalmente non le interessa no. Perché non è che i clienti continuino a fare mutui, quindi una volta che ne hanno fatto uno generalmente poi però lei avrebbe la facoltà di farne, insomma, se un cliente glielo chiedesse. Abbiamo la facoltà di farlo, però lei consideri che siccome abbiamo una convenzione con una banca terza, noi praticamente siamo i soggetti che segnalano il cliente, quindi per la gestione reale del mutuo noi ne siamo completamente fuori. Sì, sì, lei è proprio intermediario puro. Ed è un'attività sicuramente molto residuale, ma non per me, anche per tutti i miei colleghi. Io mi chiedo se non sono di sicuro i 100 euro l'anno che ci ammazzano, non mi sembra un orpello in più, anche dal punto di vista legislativo, per un'attività che, ripeto, è estremamente residuale. Io le dico, faccio mente e penso che l'ultimo mutuo di averlo fatto nel 2007. Marco, la ringrazio per la sua testimonianza. Metto infine quella di Peter da Milano per poi concludere appunto con il presidente dei promotori finanziari. Peter, buongiorno. Buongiorno. Io sono un mediatore iscritto all'albo dei mediatori creditizi e ho scoperto sabato su Plus 24 che entro oggi bisogna passare dalla Banca d'Italia a OAM. Sì. Io da ieri a oggi a mezzogiorno ho passato il giorno cercando di capire come mi sono logato, mi sono iscritto al sito di OAM, non è assolutamente chiaro. Ci sarà un intasamento anche? Non c'è il famoso intasamento di cui loro parlano, non c'è. Con la chiavetta, con l'USB puoi fare tutto tranquillamente, non c'è assolutamente l'intasamento di cui parlano, ma non si spiega perché, cioè nessuno sa come può farlo. Io tra l'altro, come diceva lei, ho contattato la Camera di Commercio di Milano, la Confcommercio e altre associazioni di categoria, nonché OAM, che si risponde con un auto-reply dicendo di guardare il PAC, e nessuno sa cosa fare. Peter, ci scriva perché giro subito nel pomeriggio la sua mail con tutte le sue segnalazioni all'avvocato Ciani, che è una persona che conosco da molto tempo, per cui cercheremo di capire le motivazioni per cui le viene impedito appunto questa iscrizione, anche perché siamo proprio ormai agli sgoccioli, per cui è giusto che lei completi anche questo iter molto rapidamente. Quindi si metta a scriverci che noi giriamo immediatamente questa mail, cerchiamo di sbloccare la situazione. Presidente Buffi, 3 minuti di tempo, si possono dire tante cose in questo lasso di tempo, cominciando intanto per esempio con le testimonianze di promotori, le figure che a lei naturalmente interessano di più, che abbiamo ascoltato poco fa. Marco dice: vabbè, a me non è che mi cambia la vita dover pagare 100 euro in più l'anno, se devo comunque magari mi garantisco anche se per me è un'attività residuale, mi garantisco la possibilità di poter accontentare i miei clienti attraverso questo ulteriore servizio. Però proprio anche lì, come lei ribadiva, è il principio che proprio mi è indigesto. È proprio così, io prendo atto dal collega Marco che ha fatto un'osservazione anche di buon senso, nel senso che se noi prendiamo questa attività attinente ai finanziamenti piuttosto che ai servizi di pagamento, potrebbero per taluni di noi essere residuali, ma per altri non è così, tra l'altro. Quindi avendo un osservatorio più ampio come quello che ha un'associazione di categoria, di fatto io mi prendo carico di tutte le fattispecie, evidentemente, e quindi per un attimo, uscendo dalle questioni anche di principio che lei giustamente evocava, sulle quali io prima mi sono soffermato, c'è anche da dire che alcuni riferimenti che ho sentito prima a proposito del plurimandato piuttosto che il monomandato, il promotore finanziario opera esclusivamente per legge attraverso il monomandato, non mettiamo in circolazione notizie che sono assolutamente prive di fondamento. Sì, però per esempio io faccio un esempio di una realtà che conosco bene, il promotore finanziario che lavora per Fineco è in monomandato rispetto a quella banca, poi però può vendere prodotti di investimento di molte case, di molte società. Sì, ma è una cosa diversa. Questa attiene all'architettura aperta, di cui praticamente tutte le società si sono sostanzialmente dotate, e fra queste Fineco fin dalla prima ora. E allora perché lei enfatizza l'importanza? È con il soggetto preponente, questo è fuori discussione. Mi lasci dire una cosa riguardo alle questioni sia tecniche che di principio. Sulla questione di principio, il nostro obiettivo, prima lo citava l'avvocato Ciani, è quello di portarci a casa un risultato e quindi di vedere totalmente esentati i promotori finanziari da questa nuova iscrizione, senza se e senza ma. Qualora questa nostra iniziativa forte che continuiamo a veicolare, se non vi dessero retta, cosa fate? Avere un successo, un riscontro positivo, ovviamente cercheremo di risolvere, come stiamo cercando di risolvere attraverso gli elementi interpretativi, ampliando il più possibile quell'elemento di accessorietà a cui si faceva riferimento, che di fatto escluderebbe l'obbligo di iscrizione. Ma le due cose vanno di pari passo. Certo. Deve anche dire a tutti i suoi iscritti che non devono fare l'esame adesso, Ha sentito. Glielo diciamo sicuramente, glielo stiamo dicendo in diretta adesso attraverso questa. Benissimo. Faccia anche una bella comunicazione sul sito. Prendendo atto anche che della circolare o della comunicazione del MEF che aspettavamo anche noi, tra l'altro, che ottimo. Avevamo richiesto. Grazie a Maurizio Buffi, presidente dell'ANAS, per i promotori finanziari, e l'avvocato Andrea Ciani, che abbiamo già salutato. Grazie a Marco Lombardo, che mi aiuta sempre tantissimo in redazione, Matteo Comes oggi in assistenza tecnica. Sono riuscita a ringraziarvi. Visto noi domani, 1 novembre, siamo in diretta regolarmente, parleremo di case delle vacanze, ci prendiamo un giorno di pausa dai problemi quotidiani. A domani.